Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. In una società sempre più fluida e attraversata da così profondi travolgimenti, ha ancora senso scegliere un target per le proprie comunicazioni? I consumatori si riconoscono di più nelle classificazioni sociodemografiche o nelle tribù che rivelano il senso di appartenenza a un'identità comune? Forse si sta consumando la fine dell'advertising per come è stato inteso fino a qui. Facciamo advertising? Facciamo advertising. Benvenuti, questo è Ferry Boat. Io sono Enzo Argante, il traghettatore. Un altro titolo che avevamo immaginato per questa puntata era C'era una volta l'advertising, perché da questo che Paolo Iabichino, che adesso vi presento, era partito. L'advertising, più semplicemente la pubblicità, che è quella che serve a vendere prodotti, quella che era impresa, lo strumento di forzatura dell'immaginario collettivo che serve a tenere in piedi il mercato. L'economia sociale, che è il viaggio che propone Ferry Boat, non poteva quindi non prevedere anche un'inversione di tendenza nella comunicazione. Non può la comunicazione dell'economia sociale essere la stessa della economia basata sul consumismo compulsivo. Allora ci siamo chiesti, ma che cos'è che intendeva dire Paolo Iabichino quando parla di advertising al punto da scriverci un libro? Paolo, buongiorno. Adesso, buongiorno intanto, a tutti. Lui è un creativo, probabilmente anche grande, come si dice, vero Paolo? Sì, sono direttore creativo di Ogilvy One, di Ogilvy Action, che sono due agenzie all'interno del gruppo Ogilvy Italia. E tu dici a questo punto cambiamo la pubblicità, cambiamo il modo di fare la pubblicità, perché la nuova economia basata sul sociale presuppone un rapporto diverso fra l'impresa e quindi fra l'agenzia di comunicazione e il consumatore. Sì, fondamentalmente la tesi di questo saggio, il cui promo in realtà era stato costruito e realizzato a giugno dell'estate scorsa, quando venne invitato dai giovani di Confindustria Trentino a tenere un intervento al Festival dell'Economia di Trento, appunto. Lì si parlava di identità e crisi globale e veniva chiesto a un direttore creativo un punto di vista su quelle che erano le tendenze in atto nel mondo della comunicazione. Fu allora che nacque il concetto dell'advertising, che in realtà non intende rinunciare al linguaggio della comunicazione pubblicitaria, per cui il titolo C'era una volta l'advertising evidentemente non avrebbe avuto modo di essere, ma in realtà quello che promuove, quello a cui ambisce, è quello di disegnare realmente un'inversione di marcia della pubblicità, laddove esistono, perché per fortuna cominciano a vedersi, dei progetti di comunicazione che portano le persone verso la pubblicità e non viceversa. Cioè, giusto per inquadrare anche nell'ambito di Ferry Boat, perché sia chiaro come, perché non è così scontato, no? La pubblicità è talmente vissuta nell'immaginario collettivo da essere una parte della nostra vita. In realtà è un potente strumento di comunicazione, dicono alcuni, ma anche di per soggiogare l'immaginario collettivo. Allora, nella società in cui si parla di risparmio energetico, di protezione dell'ambiente, di rispetto del people, planet, profit, eccetera, l'advertising, una diversa concezione del rapporto pubblicitario, è addirittura chiave nello sviluppo sostenibile. L'advertising sì, può diventare una chiave nella misura in cui questi temi diventano temi che io definisco rilevanti per dei nuovi pubblici, e nella misura in cui queste tematiche entrano a far parte di una proposizione aziendale, di un nuovo modo di fare mercato, allora la pubblicità deve fare in modo che la rilevanza di questi messaggi diventi catalizzatrice per attrarre a sé dei pubblici che sono sì interessati sempre evidentemente a dei messaggi commerciali, ma questi passano attraverso nuove valenze, attraverso le nuove priorità, che sono le priorità dei nostri giorni, a prescindere da una situazione recessiva o meno. Cioè, tu dici a un certo punto, fra le tante cose, che si passa dal monologo del reclame che ci ricorda i tempi andati ad una comunicazione che diventa conversazione, cioè ad una relazione fra l'azienda, l'impresa, pubblico o privata, che sia il consumatore. E qui tu immagini sia in relazione al linguaggio, ma anche al mezzo, cioè a internet, alla capacità. Assolutamente sì. Internet ha reso la conversazione tra brand, marche e consumatori, se ancora vogliamo chiamarli in questo modo, anche se il termine risulta quantomeno anacronistico, nel senso che nel libro si fa riferimento più agli user, cioè a persone che usano i prodotti che acquistano, e non si cerca di superare la logica del consumo fine a se stesso. In effetti quello che accade attraverso la rete è che questa conversazione sia enormemente, che sia molto potente, che sia molto veloce, che sia molto facile. Attenzione all'equivoco che nel libro si prova a sottolineare, che questo nuovo modo di fare comunicazione debba passare solo e soltanto attraverso la rete. In realtà la tesi è che si possa fare anche affissione in maniera nuova, si possa fare radio in maniera diversa, si possa fare ancora televisione in maniera ancora inedita, nella misura in cui i messaggi che passano fanno della rilevanza e delle nuove priorità il proprio messaggio. Sì, infatti, fra le parole chiave che io ho individuato e che condivido molto, si passa dalla condivisione, dalla persuasione, cioè la pubblicità come strumento, diciamo poco fa, di plagio spesso, al consenso, cioè io ti convinco che i nostri prodotti, che il risparmio dell'acqua, che l'uso dell'energia in maniera diversa, che l'automobile che non inquina, quindi che l'economia sociale è il futuro dell'uomo, ti convinco, ti coinvolgo, no? Ti arruolo a questa... La parola, no? Chiave è proprio adesione. C'è un intervento di Enrico Finzi, che è il presidente di Astra Ricerche, nel primo capitolo del libro, che è intitolato Abbasso la pubblicità. In questo intervento Enrico ci fa passare attraverso 10 anni di comunicazione pubblicitaria e per alla fine arrivare a presentarci il crollo totale del consenso nei confronti dei messaggi pubblicitari tradizionalmente intesi. È evidente che questi temi devono passare attraverso un'adesione, devono passare attraverso un consenso, non possono più permettersi di essere persuasivi tout court, non possono più permettersi di giocare su leve seduttive, piuttosto che la grande critica che è sempre stata mossa alla pubblicità è stata quella di creare falsi bisogni. L'economia sostenibile oggi ci dice che questo non è tanto un bisogno, è un'urgenza, è una priorità. Vince chi fa di questi temi un nuovo modo di stare sul mercato, e quindi la pubblicità deve semplicemente comunicarlo. Sorridere il creare un bisogno, perché quando anch'io sostengo questa teoria in occasioni pubbliche cito sempre la pubblicità famosissima di Carosello di Cesare Polacco, che era un ispettore, che alla fine della racconto del giallo sincopato diceva sempre: ho commesso un errore anch'io, però non usavo brillantina Linetti ed era calvo. Ed era esattamente l'opposto, perché a usare la brillantina si scoprirà dopo che nessuno ha mai più usato e si rischiava la calvizie. Quindi questa era la pubblicità indotta. C'è un ultimo tema che volevo commentare con te, poi abbiamo anche degli ospiti con cui approfondiremo. Si passa dalle idee agli ideali, sono piccole sfumature che però hanno delle profondi significati, e torna alla parola del servizio, che poi era all'origine della informazione sui prodotti e sui servizi, era ti spiego che cosa ti serve e come funziona. Sì, assolutamente. Il concetto dell'ideale è un concetto che in Ogilvy è stato messo a fuoco già da un paio d'anni. In realtà si cerca, per quelle marche che se lo possono permettere, di mettere in circolazione dei messaggi che sono pensati letteralmente per fare di questo mondo un posto migliore. È evidente che non tutti possono giocare un ruolo così importante all'interno del mercato, ma sicuramente le marche che in qualche modo frequentiamo in agenzie così importanti hanno e devono provare a darsi un posizionamento nuovo, nella misura in cui riescono realmente a prendere una posizione nuova sul mercato. In questo libro tu, oltretutto, prima elabori le teorie e poi racconti le storie. Esatto. Ci sono delle storie, sì. C'è già realtà l'advertising, non sì. È una proiezione intellettuale tua. Ci sono delle direzioni, ci sono dei casi importanti che vengono portati ad esempio. cito la campagna di Dove per la bellezza autentica, dove c'è un nuovo paradigma di comunicazione rispetto al ruolo della donna in pubblicità, la campagna di IBM Smarter Planet per un pianeta più intelligente, con tutte le tematiche che attengono all'uso della tecnologia per vivere meglio, fondamentalmente. Questo è per parlare di campagne che hanno dietro un ideale. Poi ci sono altri casi che sono magari casi minori rispetto a questa portata, però hanno dentro sempre un seme nuovo rispetto a un nuovo modo e una nuova attitudine di fare comunicazione, che viene messa in atto appunto attraverso magari progetti più piccoli che però hanno un'importanza particolare. Bene, ovviamente c'è l'interfaccia, c'è l'altra parte, no? C'è non la controparte, ma appunto, specialmente in quest'ottica dell'invertising, la partner, che sono i consumatori a questo punto, senza i quali un messaggio, un cambiamento di un messaggio, un'inversione di tendenza non avrebbe nessuna ricaduta. Il libro probabilmente anche nella sua prefazione ha già un messaggio preciso, la prefazione di Anna Bartolini, che è un'icona del mondo del consumo, rappresentante a Bruxelles per 9 anni, dentro la commissione delle banche, quindi proprio laddove più critico si fa il rapporto fra consumatori e imprese, e quindi la prefazione di Anna Bartolini testimonia che ci potrebbe essere dall'altra parte una voglia di cambiamento anche. Sì, devo dirti che la prefazione di Anna Bartolini per me è stata particolarmente significativa, perché insomma ha aperto la possibilità che questa ipotesi sia effettivamente percorribile, cioè nella misura in cui un libro che parla di pubblicità viene in qualche modo aperto e sposato in qualche modo dalla massima esponente europea e italiana dell'Associazione a difesa dei consumatori, significa che forse siamo nella giusta direzione, cioè che la pubblicità può tornare a essere un servizio, può tornare a svolgere anche, può tornare a essere un agente culturale, può tornare a dire alle persone quello che le persone hanno voglia di sentirsi dire. E è chiaro che mantiene al suo interno le sue logiche commerciali, però è altrettanto vero che queste oggi possono finalmente passare attraverso un'adesione migliore nei confronti del pubblico, che poi alla fine sceglie le marche ogni giorno all'interno delle proprie esistenze. Io credo che si possa dire tranquillamente che il nostro viaggio verso l'economia sociale non può che fare tappa in maniera, vorrei dire, stabile sulla teoria di invertising, che è una percezione avuta e già discussa. La comunicazione non può che cambiare per supportare, sostenere e far crescere l'economia sociale, e invertising è la prima teoria credibile, perché è strutturata, perché nasce dal mondo dell'advertising e non è un corpo estraneo, e non è, come dire, versus l'advertising, come ho detto all'inizio, ma era solo una battuta, è un'evoluzione della specie nel senso definito del viaggio. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. E il viaggio di oggi l'abbiamo in parte ancora esaurito fatto con Paolo Iabichino. Stiamo parlando di invertising, dell'inversione della pubblicità, dell'advertising, che porta ad un rapporto, alla richiesta di un consenso col consumatore, non più quindi il consumismo quello compulsivo del ti plagio, ti soggiogo, compri i miei prodotti, ma della complicità, della condivisione di percorsi che vanno proprio nella direzione dell'economia sociale. Giovanna Cosenza, buongiorno, professore. Buongiorno. Associato in filosofia e teoria dei linguaggi e dipartimento delle discipline della comunicazione di Bologna, scusate, ma era proprio questo il tuo titolo lunghissimo, e oltretutto anche apprezzata e seguitissima blogger, possiamo dirlo, professore? Va bene, possiamo dirlo. Possiamo dirlo. Insomma, passiamo dalla teoria, semmai si può chiamare così, quella di Paolo Iabichino, che è qui con noi, professore Cosenza, della testimonianza di un'agenzia pubblicitaria, a quella invece di chi forma i giovani comunicatori e quindi di chi può dire la sua su questo. E già in qualche modo lei l'ha detto sul blog, apprezzando la teoria di invertising, è così? Certo, sì, infatti è stata proprio una convergenza in rete che testimonia il fatto che poi l'essere in rete fa unisce le idee, combina le persone sulla base dei contenuti. E quindi quando ho visto questa iniziativa di Paolo Iabichino mi è venuto spontaneo segnalarla, perché va proprio nella direzione di qualcosa che sperimento da anni nell'insegnamento universitario, nella formazione dei giovani. Cioè, sì, voglio dire, questo advertising era già un seme che covava nel professor Cosenza, o è stata una rivelazione? Io insegno comunicazione come docente strutturata da 10 anni, come contrattista da molto di più. Negli ultimi 10 anni, che naturalmente sono stabile, quindi lavoro continuamente, ho tantissimi studenti, diciamo una media di 500 studenti nuovi ogni anno, ho proprio osservato una differenza. Uso molto i testi pubblicitari, uso molto analizzare in aula spot, campagne affissioni, annunci stampa, perché sono esempi di comunicazione di massa innanzitutto, sono esempi testuali, sono esempi di narratività, di creatività. Nei primi anni 2000 io ancora usavo l'esemplificazione pubblicitaria quasi come un modo per sedurre i ragazzi, no? Quando non capivano un concetto perché era spiegato altrimenti risultava troppo astratto e difficile, io usavo esemplificarlo su testi pubblicitari, mostravo lo spot, mostravo la campagna affissioni, ed era quasi proprio una seduzione, perché l'attenzione dei ragazzi si accendeva subito e tutti subito capivano a cosa mi stessi riferendo e si divertivano a smontare con me le cose. Man mano nel tempo, e parlo proprio, guardi, degli ultimi 10 anni, dal 2000 al 2010, proprio cosa è successo? È successo che la seduzione avveniva sempre, no? Ma man mano cosa succede? Succede che loro, per esempio, erano meno al corrente, erano più disattenti, non coglievano subito le esemplificazioni, solo le campagne più note, no? Quindi ho notato un calo di attenzione, forse legato proprio a quella saturazione di cui parla Paolo Iabichino. E poi negli ultimi anni l'attenzione è risalita, ma in un'altra direzione, vogliono proprio essere loro i primi, sono sempre più attenti al fatto di ad uno smontaggio critico, non più a uno smontaggio per capire, ma a uno smontaggio per poter dire a loro volta cambiate le cose che non ne possiamo più. Quindi sta dicendo, professore, che c'è una consapevolezza, ha potuto verificare per quella che è la sua esperienza, certamente limitata nella quantità ma probabilmente molto, molto indicativa in termini di tendenza. I giovani di oggi hanno una cultura mediatica di gran lunga più sviluppata, sono cambiati i media e quindi deve cambiare la pubblicità. Hanno fame di critiche e di smontaggio, da soli ce la fanno poco, una cosa per cui la reazione è sicuramente quella del rifiuto. Dopodiché io devo formarli come comunicatori e vedo che la richiesta di una formazione che li aiuti a fare in modo diverso è sempre più alta, è sempre più accentuata, è sempre più spinta. Ecco, un'ultima domanda per andare, quasi una provocazione, ma in realtà sono sicuro che è chiarissima. Cioè, lei se la sente di insegnare già adesso advertising e non advertising ai suoi studenti? Io lo faccio già da qualche anno, e per quello che quando ho visto l'iniziativa di Paolo Iabichino siamo entrati in sintonia. Lo faccio già da almeno, diciamo, in questa tendenza la conclusione, lo happy end è che negli ultimi 2 o 3 anni non mi resta che fare questo come docente, chiaramente, non come pubblicitario. Grazie professore, alla prossima. Paolo Iabichino, beh, speriamo che ci siano tante Giovanne Cosenza, perché il tuo libro, ma non al di là del libro, il tuo lavoro, immaginiamo adesso, sì, non rimanga, come dire, una luce nel buio, insomma. La cosa bella è che intorno al tema dell'advertising, infatti, molti studenti si stanno in qualche modo aggregando, e questo sembra molti studenti, molti giovani creativi. C'è una fanpage su Facebook che ha superato ormai le mille adesioni. Questa è la grande speranza, cioè che i nuovi comunicatori abbiano dentro in qualche modo questi temi. È una battuta sui tuoi colleghi? I tuoi colleghi sono altrettanto reattivi? Va bene, la risposta è già arrivata. E le aziende invece? No, vabbè, la risata era irriverente, ma perché certo, no, che non sarà così semplice, no, scardinare generazioni e generazioni. C'è un grande lavoro di alfabetizzazione da fare a più livelli, sia all'interno delle aziende che all'interno delle agenzie. Questa è una direzione all'interno dell'agenzia in cui lavoro, chiaramente è più presente, ha più attecchito. però io credo che in futuro questo sia un percorso quasi obbligatorio, poi che si chiami advertising o meno, sì, a me piace pensare che ci sia un nuovo modo di fare pubblicità, punto. Indubbiamente. Poi... Fabrizio Paschina, buongiorno, lei è responsabile della pubblicità e web di Intesa San Paolo. Salve. Buongiorno. Lei è citato adesso la sua banca, perché è uno dei prodotti, che è uno dei progetti che è stata, come dire, sottolineata da Paolo Iabichino per la sua capacità di essere già ora advertising. Si chiama Per Fiducia, e, sì, ed è cinematografico in realtà. Sì. Sì, devo dire che per chi fa comunicazione i momenti di crisi sono sempre dei momenti di grande creatività, quindi tanto sono negativi per le persone che li vivono quanto sono estremamente positivi e prolifici per chi si trova a dover comunicare. E per fiducia le confesso che, poi le racconto tra pochissimo il progetto, è un progetto che noi avevamo che io avevo nel cassetto da un anno circa, che era stato valutato, ma in una situazione, diciamo così, di normalità. Nel momento in cui crisi di sfiducia impressionante, stiamo parlando della fine del 2008 e dell'inizio del 2009, sì, quindi grandi crisi, la grande globale, crisi, certo, finanziaria, certo. All'inizio, se vuole, il grande momento di fortissima ansia di rispetto a questa cosa qua, volendo comunicare o volendo cercare di sostenere in qualche modo la fiducia o la positività che noi riteniamo nel paese continuasse ad esserci, nella quotidianità di ognuno di noi, nell'affrontare da parte delle persone quello che ogni giorno gli aspetta nella famiglia, nel lavoro, nello studio, abbiamo pensato che non potessimo essere noi a parlare di fiducia direttamente, quindi essere noi quelli che andavano a riconfermarlo, a cercare di sostenerla, ma di appoggiarci ad altri, quindi di... E che altri, dottore? Sono tre grandi registi. Quindi noi abbiamo condiviso con Ermanno Olmi, Gabriele Salvatore e Paolo Sorrentino, abbiamo condiviso il fatto che ci fosse fiducia, ci fosse forza positiva e vitale nel paese e che valesse la pena di raccontarla. Loro hanno condiviso questo punto di partenza e poi in totale assoluta libertà hanno raccontato attraverso tre cortometraggi, ognuno a modo loro, Ermanno Olmi, dei giovani che cercano di avere riscontro dalla società rispetto a un loro progetto, quindi cercare un contatto per poter portare avanti un progetto a cui credono. Nel caso di Salvatoresi, il racconto di una donna che con un'infanzia difficile riesce ad uscirne e addirittura poi dà aiuto a una persona giovane che viene a chiederle una mano, lei ha un proprietaria di un ristorante, e Paolo Sorrentino con quello più sognante, con un racconto di una metafora popolare legata al rugby, quindi una partita di rugby che accomuna padre, figlio, madre e amici in questa forza collettiva, ecco, che permette di... Bene, molto belli, mi dispiace non avere più tempo per parlare di questa cosa, è molto bella e immagino, quindi l'anticipo, le chiedo di commentarla brevissimamente, che questo vuol dire noi chiediamo fiducia e in qualche modo immaginiamo che questa fiducia venga trasmessa, no, alla banca e a quello che la banca sa fare, così. Sì, esatto, abbiamo trovato peraltro un luogo di condivisione, un sito perfiducia.com dove si possono vedere i tre cortometraggi che le ho appena raccontato, i tre nuovi che abbiamo realizzato a dicembre con tre giovani registi e che ad oggi hanno portato a oltre, siamo a 1.100.000-1.150.000 persone che hanno visitato il sito e visto queste storie. Molte grazie, a presto dottor Paschina. Paolo, questa è un'altra conferma che comunque questo bisogno di cambiamento, la verità è che non solo nel sistema economico ma in tutti gli annessi e connessi c'è uno zoccolo duro di... Sì, se pensiamo secondo i vecchi riferimenti 1 milione di persone e se pensiamo all'esposizione televisiva possono sembrare pochi, in realtà il risultato è straordinario, non perché sono 1 milione di visitatori ma perché sono, secondo me il punto di vista straordinario è che sono 1 milione di persone che hanno scelto di vedere la pubblicità, una cosa che è stata costruita da un punto di vista anche pubblicitario, cioè quindi 1 milione di persone che hanno scelto, fatemelo dire, di vedere la pubblicità. Questo è in qualche modo un bel risultato, un la spettacolarizzazione di della che della... hanno scelto, poi ci aggiungiamo di vedere la pubblicità che hanno scelto, e questo forse il cambiamento prossimo venturo dal compulsivo al Consapevoli, di cui abbiamo parlato in Ferry Bot, in questo nuovo viaggio verso l'economia sociale. Vi ricordo che Ferry Bot si può riascoltare su Radio 24. Saluti dal traghettatore Insargante, alla prossima settimana.